Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una puntata speciale del Cacciatore di Libri in onda dal Salone del Libro di Torino che si concluderà lunedì sera. Come sempre un'occasione per il pubblico per comprare libri di tutte le case editrici, dalle grandi alle piccolissime che sono spesso introvabili in libreria, ma è soprattutto l'occasione per incontrare scrittori e intellettuali. Qui a Torino ci sono stati e ci saranno ancora quasi 1300 incontri, 1500 sono invece gli espositori. Fra le novità di quest'anno una grande mostra dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, raccontati attraverso 150 libri. Fra questi sono stati scelti 15 superlibri particolarmente rappresentativi dell'Italia e degli italiani. Con che criterio sono stati scelti questi 150 libri? Lo abbiamo chiesto a Gian Arturo Ferrari, curatore della mostra e presidente del Centro per il Libro e la Lettura. Li abbiamo scelti principalmente con tenendo presente due criteri. Il primo è che l'Italia è un paese di unità tarda, e nello Stato nazionale italiano confluiscono esperienze locali molto diverse e molto differenziate. Abbiamo voluto dare conto di queste grandi diversità che confluiscono nell'Italia unita. Da un punto di vista letterario, cioè dei testi, queste diversità si esprimono principalmente nei dialetti, nella letteratura dialettale, nell'influenza delle letterature dialettali nell'insieme della letteratura e della cultura italiana. Pensi solo al successo di Andrea Camilleri, enorme, che è determinato dal fatto di esprimersi in una specie di paradialetto che lui ha inventato. Ma insomma, in sostanza, negli 150 anni dell'Unità d'Italia, la parte più espressiva della letteratura italiana è quella venuta da questa diversità. La seconda cosa è la durata. I criteri, noi abbiamo cercato di selezionare, scegliere i libri in base alla loro appunto diversità, per così dire, di provenienza, ma in base anche alla loro durata, al tempo in cui dureranno e hanno durato. Ci sono libri tra i nostri 150 libri o tra i 15 superlibri che hanno venduto milioni di copie, ma ci sono anche libri che invece ne hanno vendute pochissime di copie, che però secondo noi sono libri che hanno inciso, che hanno durato nella storia e nella coscienza degli italiani. A questa mostra è stata anche dedicata l'iniziativa di Radio 24 L'Italia in un libro. Vi abbiamo chiesto nelle scorse settimane di scegliere uno fra i 15 superlibri che secondo voi rappresenta meglio il nostro paese. Al primo posto si è classificato Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, al secondo Don Camillo di Giovannino Guareschi, al terzo Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, seguono a ruota Cuore di Edmondo De Amicis, Se questo è un uomo di Primo Levi e Gomorra di Roberto Saviano, a seguire naturalmente tutti gli altri titoli. E vi leggiamo alcuni dei commenti che sono arrivati nella votazione appunto di questi libri. A proposito di Pinocchio, per esempio, un ascoltatore ci ha scritto: è sempre di attualità e ha molto da insegnare ai grandi. A proposito di Cuore, è il regalo di mio padre quando sono nato. Primo Levi, Se questo è un uomo, sconvolgente quanto purtroppo reale. E infine sul Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un ascoltatore ci ha scritto: è stato scelto per la capacità di rappresentare il tratto italico di non schierarsi se non dopo aver visto chi vince. Paese ospite di questa 24esima edizione, la Russia. Guest star invece la Palestina, c'è stato proprio uno stand dedicato agli scrittori palestinesi. Quanto alla letteratura russa, noi siamo più che altro abituati a pensare ai classici, da Tolstoi a Dostoevskij, eppure la letteratura russa moderna è ricca di spunti. Ce ne parla Daniela Di Sora, che è editrice di Voland, una casa editrice che pubblica in Italia molti autori russi, e lei è stata un po' la madrina di questa 24esima edizione del Salone del Libro di Torino. Sentiamola. È ricca e stanno diventando sempre più interessanti le voci degli autori contemporanei, perché finalmente, ovviamente per varie vicissitudini storiche, però negli ultimi 15 anni, diciamo così, che è non nata ma ha preso forza una letteratura che può stare assolutamente alla pari con le letterature europee più conosciute, nel senso che naturalmente la letteratura russa non ha bisogno di pedigree, nel senso che è una letteratura straordinaria nell'Ottocento, nel Novecento. da un certo punto in poi c'era come una stanchezza del lettore occidentale nei confronti della letteratura russa. Ecco, a me sembra che ultimamente queste voci stiano riacquistando forza, francamente. Ci sono delle caratteristiche comuni fra gli autori russi contemporanei? È difficile per un paese come la Russia, ovviamente, che è enorme, trovare davvero delle caratteristiche comuni. A parte questo, posso osservare che molti giovani parlano della guerra in Cecenia. Uno dei temi evidentemente profondamente sentito non solo dagli scrittori ma anche dal pubblico è questo conflitto disastroso. E un'altra cosa che forse si può osservare è che, come al solito, ci sono molte voci femminili di grande peso, di grande rilevanza. Tema di quest'anno al Salone del Libro di Torino, la memoria. In realtà si è riproposto il tema dell'anno scorso, sottolineando però che la memoria può essere il seme del futuro. Allora sentiamo cosa ne pensano alcuni scrittori di questo tema della memoria. Innanzitutto Alessandro Perissinotto, autore di Semi nel vento. Tutta la mia scrittura è una scrittura di memoria, a partire dai primi romanzi, che erano romanzi storici, che quindi hanno la memoria al centro, fino a questo romanzo dove c'è la memoria partigiana, dove c'è la tradizione. Io vivo profondamente la tradizione della mia terra e mi accorgo che, lavorando sulla memoria, sai che la tradizione è apertura, e quindi la tradizione è memoria e apertura anche verso il passato. E ora Alessia Gazzola, autrice di L'allieva, che ci parla della memoria storica di un paese. È fondamentale, perché altrimenti non esiste un futuro. Se tu non ti ricordi da dove vieni, che cosa hai fatto per arrivare a un certo punto, come puoi andare avanti? Quindi sì, direi che è fondamentale. Al Salone del Libro c'è stata anche l'occasione di fare il punto sull'andamento del mercato editoriale. Ci sono luci e ombre a questo proposito. In un momento in cui sicuramente c'è una crisi dei consumi, anche il libro ne ha risentito. Ma diciamo che globalmente il 2010 è andato bene, mentre i primi mesi del 2011 soffrono un po'. Di questo abbiamo parlato con Marco Pulillo, che è il presidente dell'AIE, l'Associazione Italiana Editori. Ma nel 2011 non sta andando particolarmente bene, anzi devo dire che i numeri che ci vengono da tutti i vari canali indicano una diminuzione rispetto al 2010. È vero che il 2010 era finito molto bene, nel senso che c'era stato un Natale più che positivo, c'erano state delle vendite in crescita nei vari canali, forse in alcuni casi c'era qualche leggera flessione, ma comunque non si poteva essere che soddisfatti dell'andamento del 2010. Il 2011 è iniziato a gennaio normalmente, sempre un mese abbastanza buono, poi a poco c'è stata una continua e progressiva discesa. Adesso mi dicevano i commerciali di varie case editrici che c'è una ripresina subito dopo le vacanze di Pasqua, quindi alla fine di aprile. Speriamo, perché effettivamente la caduta è stata abbastanza significativa e quindi, per riuscire a recuperare quello che abbiamo lasciato sul terreno, bisognerebbe avere uno sprint degno di grandi corridori. E questa edizione del Salone del Libro è stata anche l'occasione per celebrare alcuni anniversari: i 100 anni dalla morte del gastronomo Pellegrino Artusi e del maestro dell'avventura Emilio Salgari. Sentiamo Ernesto Ferrero, che è direttore editoriale del Salone, ma anche autore del libro Disegnare il vento, l'ultimo viaggio del capitano Salgari. Io credo che Salgari, insieme a Collodi, a De Amicis e Artusi, abbia fatto gli italiani. Abbia creato un pubblico di lettori che non esisteva, e anche se è stato puntualmente escluso dalle storie letterarie perché dicono che scrive male, credo che sia per molte generazioni di italiani lo scrittore più amato. Ma qual è stato il segreto di questo grande successo? Insomma, le opere di Salgari vengono amate ancora oggi sia dai ragazzi che dagli adulti. Salgari è semplicemente l'avventura, è quello che l'ha detto lui stesso, è quello che ogni lettore vorrebbe essere. Ogni lettore vorrebbe essere Sandokan, forse un po' meno il Corsaro Nero, che ha sempre un'aria triste e malinconica, ma insomma questa avventura che non finisce mai, questa giovinezza eterna, questa vitalità che rompe da tutte le parti. Anche per oggi è tutto per questa puntata che abbiamo trasmesso dal Salone del Libro di Torino nella sua 24esima edizione. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, anche in versione podcast. Ora è veramente tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.